Le tre bambole. C'era una volta un re in India, il re Raghavendra, che adorava risolvere enigmi. Un giorno ricevette un regalo dal suo migliore amico, il re Bilasrao. Vostra Altezza, ho un regalo per voi da parte di Sua Altezza, re Bilasrao. Aha! Deve essere un altro enigma. Io e il tuo re ne abbiamo risolti molti insieme quando eravamo al Gurkul. Per favore, sentiti a casa nel palazzo mentre scrivo una risposta per Vilas. Grazie, Vostra Altezza. Vedi se riesci a trovare una differenza tra le tre bambole. Grazie, Vilas, e ti assicuro che ti invierò presto la risposta. Il re posò le tre bambole su un tavolo e le esaminò. Trascorse ore a esaminare ogni aspetto delle bambole, ma non riuscì a trovare alcuna differenza tra loro. Il re si chiese cosa mancasse e alla fine, dopo aver riflettuto molto, convocò l'uomo più saggio della sua corte. Vedi se riesci a individuare una qualsiasi differenza tra le tre bambole. Farò del mio meglio, Vostra Altezza. L'uomo saggio esaminò tutti i dettagli delle tre bambole, ma anche lui non riuscì a trovare alcuna differenza. Mi dispiace, Vostra Altezza, ma secondo me le tre bambole sono esattamente uguali. Come può essere? Forse il vostro amico stava scherzando, Vostra Altezza. Il mio amico non scherza mai quando si tratta di enigmi e indovinelli. Il nostro giullare avrebbe fatto un lavoro migliore. Proprio in quel momento, il giullare di corte che passava di lì udì questo ed entrò nella stanza. Passavo di qui e il mio nome ti ha sentito dire. Vorresti uno scherzo, una danza o un gioco, mio sire? Ah! Se il saggio non riesce a trovarlo, forse allora un giullare può farlo. Riesci a trovare qualche differenza tra le tre bambole? All'apparenza no. Sembrano uguali. Hanno lo stesso peso. Hanno lo stesso sorriso. Fanno persino lo stesso suono. Il loro suono è il silenzio. E anche quello sembra lo stesso. Assolutamente nessuna differenza, Vostra Altezza. Forse il puzzle è uno scherzo, allora. Il mio amico non scherza mai quando si tratta di enigmi e indovinelli. Vai via! Il re era così disperato che permise a chiunque desiderasse di provare a risolvere il puzzle. Ma nessuno ci riuscì. Un giorno venne portata da lui una vecchia narratrice. Ho sentito che c'è un enigma che ti disturba, Altezza. Quindi i narratori risolvono gli enigmi ora, vero? Forse questa storia parla di un enigma, Altezza. O forse c'è una storia nell'enigma. Prova se vuoi. Una storia richiede un narratore e un ascoltatore, Vostra Altezza. Quindi mi stai chiedendo di restare? Sì, Vostra Altezza. È tutto ciò di cui ho bisogno sono tre ciocche di capelli. Tre ciocche di capelli? Perché? Le cose che sembrano uguali all'esterno potrebbero essere molto diverse all'interno. Ora, per favore, dammi tre ciocche di capelli e dammele una alla volta. Sembra che mi stia dando un ordine. Forse lo sto facendo, ma non chiedo nulla di irragionevole, vero? No. Prendi questa. Vostra Altezza. Prendi questa. La differenza, cosa significa questo? Bene, la prima bambola rappresenta l'uomo saggio. Ascolta, recepisce ogni parola e la tiene nel profondo del suo cuore. La seconda bambola appartiene allo sciocco. Ciò che sente va in un orecchio e fuori dall'altro. La terza bambola? Beh, è il narratore. Quello che sente lo trasmette agli altri. E quindi quale pensi sia il tipo di persona migliore? Dipende dalla situazione, Vostra Altezza. A volte ci sono cose che dovrebbero essere tenute segrete. A volte ci sono cose come pettegolezzi che non meritano alcuna attenzione. Poi ci sono cose come storie o conoscenze o lezioni che devono essere condivise con tutti in modo che tutti possano trarne beneficio. Non sono le bambole da sole buone o cattive. Dipende da quale bambola usi in quale situazione. Oh, grazie mille. Questa è la tua ricompensa, signora mia. Grazie. Così il re inviò la risposta dell'indovinello al suo amico, ringraziandolo per la meravigliosa lezione. Ogni volta che doveva decidere cosa fare con un'informazione, se tenerla segreta, ignorarla o condividerla, pensava sempre alle tre bambole, e questo lo aiutava a decidere.